Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say. Ciao a tutte, ciao a tutti. Avrete sicuramente riconosciuto la sigla di La Mucca Libera, il programma antispecista in onda tutti i lunedì dalle 19 alle 20 su www.radiasilo.it. Cominciamo subito dai nostri contatti. Se volete farci domande, raccontarci testimonianze delle vostre scelte di vita antispecista e vegan, potete farlo all'indirizzo mail lamuccalibera@autoproduzioni.net. Per restare informati invece circa le nostre trasmissioni, le notizie che diamo nelle nostre trasmissioni e per riascoltare i nostri podcast nel caso abbiate perso la trasmissione del lunedì, la diretta del lunedì, potete iscrivervi al canale Telegram La Mucca Libera. Cominciamo subito dalle news della settimana. La prima che volevamo darvi riguarda il mondo marino. Ne stiamo parlando molto ultimamente, soprattutto parlando di ambiente, e un nuovo studio dell'Università di Cadiz in questa settimana ha fatto emergere che gli imballaggi dei cibi e delle bevande da asporto sono la principale causa di inquinamento marino a livello globale. Ora, io vi do questa notizia così come è circolata. In realtà noi sappiamo, perché ne abbiamo parlato molto nelle scorse settimane, che il motivo di inquinamento peggiore dei fondali e del mare è in realtà la pesca. La plastica che troviamo nel mare è soprattutto plastica che deriva dalle reti o tutto il materiale necessario per la pesca, soprattutto quando avviene su livelli industriali. Purtuttavia, questo nuovo studio dimostra che appunto una grande causa di inquinamento è il cibo da asporto. Io credo che comunque questo avvenga, questa piccola incongruenza rispetto a quanto abbiamo detto altre volte, rispetto ad altri studi, avvenga anche a seconda delle zone del mare, degli oceani in cui viene raccolto il materiale e viene poi fatto lo studio. Infatti, i ricercatori dell'Università di Cadiz hanno analizzato 12 milioni di frammenti di rifiuti, però specificatamente fossero più grandi, al di sopra di una grandezza superiore ai 3 centimetri, trovati non solo negli oceani ma anche nei fiumi, lungo le coste, nei fondali. Quindi è sicuramente questo l'aspetto che in qualche modo poi va a influire circa la principale causa di inquinamento. E in questo caso 8 campioni su 10 presi dai ricercatori erano in plastica, ovviamente, e il 44% di questi campioni di plastica risultavano da cibo o da bevande da asporto. Erano quindi frammenti o di sacchetti monouso, bottiglio, comunque tutti i contenitori e gli involucri che vengono utilizzati per gli alimenti, che sicuramente sono rifiuti plastici che inquinano tantissimo mari, oceani, ma che soprattutto hanno un uso molto diffuso e io mi permetterei di dire in realtà spesso sconsiderato, perché non ci sarebbe proprio bisogno di tutta questa plastica per il cibo da asporto. E soprattutto non solo hanno un uso larghissimo, ma hanno una degradazione estremamente lenta, quindi immagino che questi rifiuti dominino proprio il pianeta. Tra l'altro, della plastica ne abbiamo parlato spesso, sappiamo che il ciclo di vita della plastica è sostanzialmente insostenibile in ogni sua tappa, eppure ancora oggi è uno dei materiali di uso più comune, nonostante l'impatto ambientale elevatissimo di cui abbiamo spesso parlato, soprattutto se pensiamo alla plastica di cui stiamo parlando in questo momento, cioè quella monouso, che in realtà è circa un terzo della produzione globale della plastica nel mondo. Quindi significa che ancora continua a dominare non la plastica riciclata o riutilizzata o riutilizzabile, ma bensì quella monouso. Infatti, gli ultimi dati ci dicono che nel 2019 sono stati 130 milioni di tonnellate quelle che hanno riguardato la plastica usa e getta che sono state prodotte, e di queste ogni anno solo una minima parte, noi sappiamo, al di là della nostra singolare individuale efficienza nella differenziata, in realtà di tutta la plastica che viene prodotta solamente una frazione piccolissima viene effettivamente riciclata. Parliamo di stime che sono molto al di sotto del 20% della plastica ad essere riciclata, parliamo tra il 10 e il 15%. Che fine fa la maggior parte della plastica, nonostante noi ci affanniamo da bravi e brave diciamo consumatrici e consumatori da un certo punto di vista, ma che tentano di tutelare il pianeta? Buona parte di quella plastica che noi ricicliamo in realtà viene bruciata, oppure finisce in discarica, oppure, come in questo caso, nello studio di cui stavamo parlando, contribuisce ad inquinare i fiumi, i mari, gli oceani. È per questo che non finiremo mai di dire che, per quanto una piena consapevolezza dal punto di vista dei singoli e delle singole è fondamentale ed importantissima e passa attraverso tante vie che non sono solo quelle della differenziata, ma sono quelle di un'alimentazione a base vegetale, sono quelle che prevedono degli stili di vita a rifiuto quasi zero o antispreco, pur tuttavia, nonostante tutto l'impegno che possiamo come singoli e singole profondere in queste operazioni, è chiaro che c'è qualcosa da riformare a livelli molto molto più ampi di quella che è la nostra singola consapevolezza. Parliamo di un sempre rimaniamo nel mondo marino, parliamo di una situazione particolare di 5 balene di tipo beluga. Sono balene che io devo ammettere ho visto qualche giorno fa per la prima volta come sono bellissime, sono bianche, con una testa molto grande, particolare, e soprattutto hanno una voce che ricorda quella degli uccelli, per cui sono chiamate anche gli uccellini del mare. Queste balene di tipo beluga sono bellissime. Parliamo di 5 balene in particolare, che dal Canada, da uno zoo acquatico che si chiama Mystic Aquarium, che sta in Ontario, nella regione del Canada, sono state trasferite dopo una lunga controversia legale in America, negli Stati Uniti d'America, nella regione, nello stato del Connecticut. C'è stata una lunga controversia per questo trasferimento molto pericoloso per queste 5 balene beluga. Nonostante l'opposizione di una vasta serie di associazioni, attivisti ed attiviste della zona. Questo trasferimento c'è stato, sono passate da uno zoo acquatico all'altro. Il trasferimento fortunatamente non ha causato danni a queste balene. Però è una situazione che comunque non si è riuscita a risolvere perché queste balene sono rimaste detenute in uno zoo acquatico. Quindi questo movimento che mirava alla loro liberazione è stato comunque sconfitto, sempre con la scusa che si dà in questi casi, che sono balene che non hanno mai avuto l'opportunità di crescere in libertà e quindi si dice no, devono rimanere in un ambiente protetto, ma la risposta a questa obiezione è molto semplice, ci sono anche dei santuari e dei rifugi marini come ci sono quelli terrestri di cui spesso parliamo nella nostra trasmissione ed era stato anche proposto uno specifico santuario marino per queste cinque balene beluga, per cui continua insomma la lotta per la loro liberazione. Restiamo in ambito marino, continuiamo a parlare di balene. Questa notizia sono sicura che ti piacerà. È abbastanza interessante, soprattutto per chi non lo sapesse, io e il mio compagno di radio, in realtà siamo amici da tempi immemori. Siamo stata insomma compagni di classe e per diversi anni, e quindi questo ci riporterà alla mente sicuramente uno scherzetto di cui parlavamo quando eravamo giovani. Ti ricordi quando eravamo giovani? Ma tantissimo tempo fa. Venerdì mattina alle 8, un simpaticissimo pescatore che si trovava non lontano dalle coste del Cape Cod, si era appena imbracato e aveva indossato il necessario, compreso la bombola d'ossigeno, per l'immersione, un'immersione non pacifica ovviamente, ma un'immersione nelle acque a caccia di aragoste. A quel punto una simpaticissima balena, che simpaticissima però sul serio, che si trovava lì nei dintorni, ha ben deciso di ingoiarlo. Per cui questo pescatore è stato ingoiato con tutta la sua attrezzatura e la bombola d'ossigeno all'interno della balena, e dopo pochi secondi, in base al racconto che poi ha rilasciato, dopo 20-30 secondi di smarrimento si è reso conto di essere nella bocca dell'animale. Si è proprio reso conto che attorno a lui c'erano, per quanto uno spazio molto grande, ma uno spazio circondato dai muscoli della bocca dell'animale. A quel punto ha cominciato a chiedersi, resosi conto di essere comunque intatto e vivo, ha cominciato a chiedersi come avrebbe potuto uscire da quella situazione, e quindi ha cercato di capire se poteva avvicinarsi all'apertura della bocca per poterne uscire, mentre dal suo racconto si evince che era sostanzialmente piuttosto terrorizzato all'idea che da un momento all'altro la balena l'avrebbe maciullato o ingoiato. Questa balena comunque ha starnutito. Dopo una trentina di secondi dall'averlo ingoiato, ha starnutito, e con questo starnuto ha riversato in mare, di nuovo nelle acque, il pescatore perfettamente sano, che infatti è stato poi trasportato all'ospedale, ma è stato dimesso subito dopo perché non ha riportato nemmeno delle contusioni. Ovviamente le notizie che ho letto in giro parlano di un incidente, anche perché si sa che parliamo di balenottere azzurre, sono una specie che dall'animale umano viene considerata sostanzialmente pacifica, non attacca mai l'uomo, e di conseguenza è stato appunto derubricato come incidente di percorso. Mi piace invece pensare che questa bella balenottera azzurra che solcava i mari abbia invece fatto un bell'atto di resistenza animale, facendo comprendere all'animale umano che forse non è più il caso di immergersi per devastare il mare pescando le aragoste. Adesso tu mi dirai che cosa ti ricorda questa notizia che ho appena dato. Confessalo, perché sono sicura che lo ricorderai. Vabbè, un assist abbastanza facile, mi ricordo una canzone che posso citare dicendo: Felice fu benché in prigion questo pescatore, sebbene in pena. parliamo di una notizia molto bella che vogliamo dare, perché si parla di libertà, si parla di una liberazione di tre macachi che sono stati anni usati come cavie da una università italiana, l'Università di Verona, e fortunatamente dopo anni sono stati rilasciati questi tre macachi e adesso sono liberi. Sono stati portati, visto i danni che hanno subito per tutta la sperimentazione, la tortura che hanno ricevuto per anni, sono stati portati in un luogo sicuro dove verranno anche accompagnati per una loro riabilitazione da alcune persone veterinarie, insomma persone che li riporteranno un po' alla vita. Questa liberazione è avvenuta nell'ambito di un accordo tra alcune istituzioni universitarie, citavo Verona prima, però ci sono anche Modena e Padova, che hanno deciso di liberare una cinquantina di macachi, quindi non solo questi tre adesso che sono stati già liberati, ma in futuro anche altri, una cinquantina di macachi che verranno liberati, e si farà carico un'associazione del loro reinserimento alla vita fuori dalla tortura. Questa università ha fatto una scelta che sicuramente reputiamo giusta, ma ricordiamo anche che ce ne sono altre come l'Università di Parma e di Torino che continuano a sperimentare, a torturare i macachi. Abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione del famigerato progetto Light Up che addirittura insomma rende cieche queste scimmie con delle torture veramente vergognose, per cui c'è ancora in atto una mobilitazione per la liberazione dei macachi. Comunque rimaniamo con questa bella notizia almeno per la libertà, liberazione di questi tre macachi dall'Università di Verona. Torniamo in voce per parlare di una notizia di cui avevamo in realtà già parlato a fine maggio, riguardante il Parlamento europeo. La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione europea una revisione della direttiva che riguarda tutta l'Europa circa la detenzione degli animali negli allevamenti, affinché fosse rivisto il tipo di detenzione ed eliminata l'utilizzo delle gabbie. Ne abbiamo parlato appunto a fine maggio, aspettando che il Parlamento europeo si pronunciasse su questo elemento, e purtuttavia abbiamo segnalato che già la Commissione Agricoltura però sottolineava che l'eventuale dismissione dell'utilizzo delle gabbie fosse accompagnata comunque da incentivi, in finanziamenti, da un periodo molto lungo di tempo in cui le aziende potessero adeguarsi, il che in effetti in qualche modo ci era sembrato un po' troppo. Adesso l'Unione Europea si è espressa, l'Europarlamento ha votato, per cui ha dichiarato che effettivamente agli allevamenti in gabbia dovrà essere dato uno stop entro il 2027, quindi si sono dati dei tempi molto lunghi, e ancora una volta hanno sottolineato come questo stop debba innanzitutto avvenire tramite una legislazione comunitaria, per cui i paesi devono darsi tutto il tempo per creare questa legislazione insieme, e contemporaneamente questa legislazione debba essere accompagnata da incentivi e finanziamenti affinché le aziende possano semplicemente sostanzialmente aprire le gabbie che creano i loro allevamenti, il che sicuramente a me personalmente sembra un po' troppo. In ogni caso la Commissione europea voterà entro il 30 giugno e quindi darà una risposta definitiva alla questione allevamenti in gabbia. Adesso ascoltiamo un brano di un gruppo che noi amiamo molto, Tribade, un gruppo di femministe, rap femminista spagnolo. Il brano si chiama Abolo. Que era polo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa. Yo que era polo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Tiene dos móviles como la que antes. No es esa misma dal de los clientes. Me hablo por Instagram pa' criticarme. Dice que no le gusta mi manera expresar. Dice que aprenda a diferenciar entre trata y trabajo sexual. Que deje de opinar sin tener ni idea de nada. Que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema y que el trabajo asalariado es la misma mierda con diferente correa. Que mis argumentos contribuyen al estigma. Que por culpa de eso lleva diferentes vidas. Y tengo que aprender a controlar esta boquita. Porque el lenguaje ofende y aquí somos feministas. Que no me queje tanto que parezco moralista. Me lleva de viaje con la pata que le sisa. Dice que se está cobrando el patriarcado. Que no me queje tanto que a mí me lo hace gratis. Que nunca me ha cobrado. Que la chula es ella y no ha nacido hombre que la haya mandado. Tengo un amor en la calle. Eso que tú me dices yo no lo creo, cariño. Que en el resto de explotaciones yo no me fijo. Que si quiero que lo prohibamos a media me ha dicho. Que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga. Dice que no gano para pagarla. Yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. ¿Quién es la puta? Ella la que paga. Dice que no gano para pagarla. Si yo tengo el control, mami, no me subestime. Le estoy apropiando todo lo que no debe. Que si hablan en mi nombre, si me tapan la boca, no es menos patrón el que prohíbe que el que explota. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Tú eres dueña de tu tiempo, ¿no? Pongo mis normas, mis condiciones, mi horario. Yo marco los días de party en el calendario. Dice que he picado, que estoy vendiendo mi cuerpo. Che, si fuera ya no lo tendría, ¿no? Trazo tiene la bandeja con el pulso de sus brazos. Yo también vendo mi fuerza de trabajo. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Crimi, crimi, crimi, criminaliza mis actos. Prefieren que en los clandestinos cierre el pacto. Dímelo, dímelo, dime, dímelo. Si tu trabajo actual fue primera opción. Triba de puta, pa' la mami chulitas. Que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa. Yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Torniamo in voce per continuare con le notizie, ancora un blocco di notizie e ritorniamo a parlare di una vicenda di cui abbiamo parlato a lungo ai nostri microfoni in più occasioni, perché è una vicenda molto particolare, che è quella del Casteller. Quindi ritorniamo in Trentino a parlare degli orsi. E un'ordinanza del Consiglio di Stato ha deciso che ci sia un'ispezione all'interno del Casteller. In realtà questa ispezione nasce da un ricorso al TAR che è stato fatto da alcune associazioni animaliste, tra cui l'EMPA e l'OIPA, che hanno fatto ricorso appunto rispetto alla vicenda di M57, di cui abbiamo parlato più volte ai nostri microfoni. Il Consiglio di Stato ha inoltre chiesto, oltre all'ispezione, anche il parere dell'ISPRA circa le vicende che hanno riguardato le famose vicende del carabiniere coinvolto poi nella cattura di M57. Intanto c'è anche da dire che in questa settimana ci sono stati diversi incontri all'interno del Trentino tra animali non umani ed animali umani, come dicono le persone, i giornali specisti che parlano bene. Ci sono stati diversi incontri con animali confidenti. Nel primo caso una coppia di escursionisti che si trovava nella zona del Trentino e che si era recata lì per una escursione in montagna si era fermata per consumare un pranzo al sacco. Nel momento in cui stavano consumando il pranzo, in realtà un simpatico orsetto si è affacciato. La coppia di escursionisti ha immediatamente lasciato tutto lì e sono scappati via, ma non così lontano da non continuare a vedere l'orso, il quale prima ha consumato tutto il pranzo della coppia e poi con un fare però non assolutamente non offensivo, ma al dire della coppia di escursionisti stessi piuttosto amichevole, ha tentato poi di avvicinarsi agli animali umani che invece spaventati sono corsi via. Il secondo incontro invece c'è stato tra un gruppo di persone che erano impegnate nella raccolta, adesso non ricordo bene di quale bacca o qualcosa di simile, muore, qualcosa insomma di simile, quindi c'era questo gruppo di persone impegnate nella raccolta e un altro simpatico orsetto, probabilmente non lo stesso visto che le zone erano abbastanza distanti, si è avvicinato, in modo particolare si è avvicinato abbastanza, circa una distanza di circa 5 metri ad una donna, la quale ha lasciato lì la raccolta ed ha cominciato ad allontanarsi. Questo orsetto però, anche in questo caso, con fare piuttosto amichevole, ha cercato di stringere amicizia con l'animale umano, la quale è piuttosto spaventata ha continuato ad allontanarsi, e questo balletto è durato circa per 70-80 metri, in cui la donna si allontanava e l'orso cercava di raggiungerlo. Speriamo che questi poveri orsi, orse, non so, non conosco il genere, capiscano presto che in realtà all'animale umano è meglio non dare alcun tipo di confidenza. Restiamo in Nord Italia, in provincia di Biella in questo caso, dove nel lago di Viverone c'è stato un episodio di resistenza animale molto bello e particolare, possiamo dire, perché una coppia di cigni che vive nel lago, è abitualmente residente nel posto, quindi in provincia di Biella, Viverone, questa coppia di cigni che aveva con sé ben 7 cuccioli assieme, è stata aggredita da una persona del luogo, da un passante che è stato anche filmato, e quindi abbiamo visto girare in rete, sul web, questa aggressione. Ma fortunatamente, perché parlavo di resistenza animale, perché la coppia di cigni è riuscita a mandare via questa persona e a salvare i propri piccoli, i propri cuccioli che stavano con loro, quindi questo rapimento è stato sventato dall'intervento della coppia di cigni. E visto che stavamo parlando di resistenza animale, vorrei continuare su questa scia parlando di una notizia in realtà di poco prima che iniziasse la trasmissione, che mi sembra abbastanza sull'onda della resistenza animale. In questo caso io ci vedo proprio un atto di solidarietà da parte degli animali umani agli animali non umani. In piazza Signoria a Firenze un cavallo che trainava una carrozza improvvisamente ha deciso di cercare di liberarsi della carrozza, non ha ferito le persone circostanti, ma si è lanciata contro due auto creando diversi danni. Voglio sottolineare che una delle due auto era quella del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, quindi grazie cavallo che sei solidale con le nostre lotte. Andiamo in Africa, dove si è pensato di cercare di limitare la caccia ai rinoceronti con un metodo piuttosto invasivo e molto pericoloso per la salute dei rinoceronti stessi, che è quello di rendere radioattivi i corni dei rinoceronti. È questa misura che dovrebbe servire a combattere il bracconaggio che sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle 5 specie di rinoceronte viventi, in realtà sta mettendo a rischio stesso la salute degli animali. Questo progetto è stato chiamato Risotope, dall'unione delle parole inglesi rinoceros e isotopo, quindi diciamo uno dei rinoceronti che diventano radioattivi per sfuggire alla cattura dei bracconieri. È qualcosa che sempre va ripudiata, questa violenza, possiamo dire, contro gli animali. Continuiamo a parlare di news della settimana, quindi questa volta ci spostiamo in California, dove purtroppo 3.000 uova di... opterò per uova. 3.000 uova di una specie che io in realtà non conoscevo, ho letto oggi, si chiama sterna, quindi 3.000 uova di sterna sono state abbandonate dagli uccelli che sono stati spaventati dalla caduta di un drone. Un drone stava sorvolando la zona e improvvisamente è caduto, c'è stato uno schianto molto forte per cui gli uccelli spaventati sono scappati via e non sono più ritornati per proseguire con la cova, per cui queste 3.000 uova sono state abbandonate. Leggevo anche che l'abbandono di uova è aumentato nel periodo della pandemia, e questo perlomeno per quanto riguarda la zona della California o limitrofe è dovuto innanzitutto effettivamente ad un aumento del numero di droni che sorvolano la zona e che spesso cadono o comunque mettono dei rumori troppo forti per cui gli uccelli spaventati si allontanano, così come anche è dovuto a una maggiore presenza nel periodo della pandemia di biciclette e di cani. Ma spulciando un po', è poi particolarmente interessante il fatto che in realtà in quelle zone c'è stato uno sviluppo immobiliare selvaggio che ha portato tantissime costruzioni ad essere troppo vicine alle zone di nidificazione degli uccelli, per cui in realtà possiamo immaginare che più che i problemi dei cani o delle biciclette, il problema degli immobili cresciuti selvaggiamente in zone in cui non dovrebbero esserci sarà sicuramente il motivo principale. Parliamo del G7, sicuramente un evento che negli ultimi giorni ha catalizzato molta dell'attenzione, ma noi ne parliamo dal punto di vista, non faremo una discussione Cina sì, Cina no, ma ne parliamo dal nostro punto di vista. In particolare un gruppo di vari gruppi di Extinction Rebellion, sabato pomeriggio hanno messo in piedi una protesta in diverse città italiane, a Torino, a Firenze, a Bologna, a Padova e a Trieste. Parlando quindi della crisi climatica e della crisi ecologica, hanno dato origine a blocco del traffico in vari punti nevralgici delle città. Questa forma di protesta si è sviluppata attraverso quello che loro chiamano il Rebellion of One, cioè la ribellione del singolo. Il singolo o la singola, sì, individuo, insomma, muniti spesso di cartelli molto eloquenti, cercano di rallentare o bloccare il traffico in dei punti nevralgici semplicemente sedendosi a terra. A questo tipo di ribellione hanno partecipato diverse persone nelle città di cui parlavo prima, fra cui anche ad esempio un ricercatore dell'ISPRA. E alcuni dei cartelli che sono stati esposti mi sembravano particolarmente interessanti. Uno diceva: sono terrorizzato dalla sesta estinzione di massa e dalla crisi climatica. Un altro invece ancora diceva: ho paura che si verificheranno altre epidemie a causa dell'emergenza climatica ed ecologica. Prima di lasciarci ad un altro po' di musica che fa sempre bene, in realtà la notizia più pesante di tutta la settimana che ho tenuto nascosta al mio compare di radio perché non volevo vederlo svenire, essendo un animale umano particolarmente sensibile alla violenza e alla crudeltà sugli animali. È uscita una nuova inchiesta da parte di Animal Equality, che ricordiamo, per chi non lo conoscesse, a volte ne abbiamo parlato ai nostri microfoni, si interessa di furtivamente di girare video all'interno delle situazioni più estreme per gli animali, come macelli et similia, che spesso poi trasforma queste situazioni in delle video inchieste. In questo caso, appunto, la video inchiesta che è appena uscita, che è un video veramente scioccante di una decina di minuti, se volete, potete guardarlo, ma io vi consiglio di farlo solo se avete uno stomaco veramente forte. Io non ce l'ho, ma l'ho fatto per potervene parlare con una certa cognizione di causa. E questo video riguarda l'azienda Zema. Il nome non dirà granché alla maggior parte delle persone in ascolto, purtuttavia è un'azienda che dal 1987 si occupa della macellazione dei maiali e è un'azienda in realtà leader non solo in Italia ma anche all'estero, porta anche al di fuori il prodotto macellato, al di fuori dell'Italia. È talmente tanto importante che parliamo di una quantità di persone. Non umane uccise, pari a circa 3.000 a settimana, quindi parliamo di livelli di macellazione altissimi. In questo video scioccante si parte proprio dall'identificare l'azienda. Si tratta di un'azienda appunto leader nel settore, molto importante, che anche all'estero viene glorificata come un'azienda particolarmente attenta anche al benessere animale. Nel video compare la testata Il Sole 24 Ore, che la riporta come azienda di eccellenza. Eppure i minuti che seguono dopo tutto parlano purché di benessere animale. Si comincia dall'arrivo degli animali all'interno del macello, quindi ci sono delle immagini che riguardano lo scarico di quelle che sono merci per l'azienda. E se nella migliore delle ipotesi della legislazione italiana, che non è sicuramente la migliore delle mie ipotesi, l'idea è che lo scarico di maiale e maiale avvenga attraverso dai camion, attraverso delle rampe in modo sicuro. In verità, ciò che avviene è che non esiste alcuna rampa, i maiali che non sono animali strutturalmente costituiti e costituite per poter fare grandi salti, sono costretti a saltare dal camion fino all'area che li deve, diciamo, accogliere in un primo momento, scaricati in modo violento dagli operatori con percosse, colpendoli con dei pungoli, con degli stimoli elettrici o in ogni caso dando loro dei calci. Quindi i maiali e le maiale costretti, alcuni veramente molto piccoli, si vedono nel video che sono davvero dei cuccioli. Si gettano giù dal camion ed entrano in questa prima area. C'è da dire che già in queste immagini si vede che diversi maiali arrivano lì al macello già morti, quindi morti chissà probabilmente durante il trasporto, quindi possiamo solo immaginare anche che tipo di trasporto sono sottoposti. E nel video ci viene detto che molti arrivano in realtà già malati, con cisti, zoppi o d'altro, quindi possiamo anche qui solo immaginare le condizioni dell'allevamento da cui provengono. A questo punto, dopo essere entrati nella prima area, che non è ancora quella della macellazione, vengono sottoposti a vari maltrattamenti. Si vedono gli operatori dell'azienda che danno calci, li colpiscono con delle aste di acciaio, li trascinano per le zampe o addirittura tenendoli per le orecchie li trascinano sul pavimento. E la cosa che mi ha fatto ancora più soffrire è vedere come questi animali si rendano conto delle torture a cui sono sottoposti e quindi già lì cercano di fuggire. E ovviamente vengono ripresi in delle modalità ancora più violente. La scena poi diventa quella di un operatore che si accanisce su un maialino cucciolo molto piccolo, colpendolo prima in testa con questa asta di ferro e poi, dopo averlo più volte colpito con questa asta di ferro e tramortito, lo scaglia contro il muro e solo infine lo prende e lo getta, ormai posso immaginare in fin di vita o comunque agonizzante, lo scaglia lontano dalla prima area di ingresso, oltre il muro, in quella che diventa poi l'area in cui dovrebbe avere proprio inizio la macellazione. Tutto questo si potrebbe dire avviene da parte di operatori violenti e cattivi. In realtà non è così, non è un episodio singolo ed avviene non solo da parte di tutti gli operatori presenti all'interno della struttura, questo tipo di trattamento, ma sotto gli occhi assolutamente compiacenti dei proprietari diretti dell'azienda. A questo punto il video si sposta nella zona in cui vengono compiuti gli omicidi, e le uccisioni sono davvero le uccisioni più più crudeli possibili, vengono uccise nei modi più crudeli immaginabili, con pistole, scariche o altro. Sappiamo che per la legge la macellazione dovrebbe avvenire dopo che gli animali sono stati storditi, e sappiamo che dovrebbe avvenire dopo uno stordimento individuale di ogni animale, cioè ogni animale dovrebbe essere sottoposto a uno stordimento, assicurarsi che effettivamente quell'animale non sia più cosciente e solo dopo procedere alla sua uccisione e macellazione. Quello che avviene invece all'interno di quel video, e si vede chiaramente, è che lo stordimento avviene, i maiali e le maiale vengono messi in gabbia in gruppo, altro che individuali, e lì avviene una sorta di stordimento iniziale. Ovviamente questo stordimento iniziale, funzionando così, cioè operato così sul gruppo, non funziona, per cui la maggior parte resta cosciente, così quando sono messi sul nastro si vede che sono coscienti, piangono, si sentono le grida strazianti, si muovono ancora, per cui a quel punto cominciano ad essere elettrificati in modo quasi compulsivo da parte degli operatori, vengono direttamente mutilati, così mentre sono sul nastro trasportatore, quindi con i loro compagni accanto che vedono cosa sta succedendo e che gridano chi può, chi ancora voce, chi ancora non è stato ucciso o mutilato, chi può ancora grida e piange. Dal nastro trasportatore, noi sappiamo, sul nastro trasportatore dovrebbero essere appunto animali già storditi e non in queste condizioni, e dal nastro trasportatore si va poi al momento della macellazione vera e propria, che appunto avviene su molti animali che sono ancora coscienti, che quindi vengono sgozzati quando sono ancora coscienti vicino ai loro compagni ancora coscienti, e quindi si dibattono nel dolore. Questo avviene anche a cuccioli piccolissimi, davvero tenerissimi, e quindi si dibattono nel dolore fino a che non hanno più forze e voce e muoiono dissanguati. Eppure quello che mi ha colpito è che ancora in queste condizioni alcuni animali cercano di fuggire, cercano di scappare dal nastro, cercano di sottrarsi a questa violenza, a queste torture, con tutta la forza che hanno in corpo, di ribellarsi e di scappare. Ma purtroppo il dissanguamento sicuramente prima o poi li raggiunge. Sono ovviamente tutte sofferenze inutili, e come tali vengono definite all'interno dell'inchiesta di Animal Equality. Ma mi viene di chiedermi qual è invece la sofferenza che è utile. La macellazione è una sofferenza che è utile? Ovviamente tutto questo è devastante, il pensiero che questo avviene, e che soprattutto che questo avviene a animali coscienti ancora, e che non sia, perché non illudiamoci che sia un'azienda cattiva, l'unica azienda cattiva che fa tutto questo. Questa è la quotidianità di tutti i macelli, non solo in Italia ma anche all'estero. E pur tuttavia c'è proprio da chiedersi: noi abbiamo davvero bisogno di tutto questo per cibarci di qualcuno? Adesso lanciamo la seconda canzone di questa puntata. Ci ascoltiamo uno degli ultimi brani che ha fatto Noel Gallagher con il suo nuovo gruppo. The love lady, I want. Siamo arrivate e arrivati alla rubrica che tutti aspettano, oserei dire, che è la rubrica di cucina antispecista. Sempre con noi Chef Rubbo, a cui do la parola perché oggi abbiamo una notizia molto molto interessante. Sì, stasera non parleremo di ricette, non parleremo nello specifico di come strutturare un'alimentazione vegetale. In realtà avevamo anche molte domande che c'erano arrivate, ma Chef Rubbo in verità le ha dimenticate a casa, le aveva scritte su un foglietto le domande, le ha dimenticate a casa, quindi avendo una memoria così un po' altalenante, non parleremo quindi di alimentazione. Per chi ci ha fatto le domande, basterà attendere un'altra settimana, e parliamo invece di alimentazione vegetale e Covid-19, un argomento attualissimo. Questo perché un nuovo studio che è stato pubblicato questa settimana, e che è anche il primo studio su questo genere, cioè che inizia a collegare il Covid-19 all'alimentazione a base vegetale, ha dimostrato che un'alimentazione a base vegetale diminuisce del 73% il rischio di sviluppare sintomi gravi del Covid-19. Quindi, per la maggior parte delle persone che si alimentano a base vegetale, pur contraendo il Covid-19, i sintomi risultano essere molto meno gravi. In realtà si aspettano ancora degli altri studi che si stanno conducendo, che riguardano proprio il contagio, il rischio di contagio per persone a base, che hanno un'alimentazione a base vegetale. La cosa interessante di questo studio, che è stato condotto su 2.884 persone, suddivise in 6 tra i paesi più colpiti dal Covid-19, e quindi ovviamente anche l'Italia, visto che abbiamo questo bel primato di dopo la Cina, diciamo, ci siamo subito dopo noi. E le persone che sono state scelte per questo studio sono tra le più esposte al contagio da Covid-19, quindi sono stati scelti dottori e dottoresse, operatori sanitari, un po' il personale che tante volte è stato detto è stato in prima linea. Tra queste persone 568 hanno purtroppo contatto il Covid e sono state poi catalogate secondo due diversi indici di gravità, da moderato a grave e da leggero a molto leggero. Quindi si è visto che per le persone tra queste che appunto avevano un'alimentazione maggiormente di natura vegetale, il 73% appunto era diminuito del 73% la possibilità di sviluppare sintomi gravi, per cui ricadevano molto più facilmente nell'altro indice, quello più basso, da leggero a molto leggero. La cosa interessante è che, essendo anche un campione di persone che sono state scelte in base alla loro esposizione al contagio da Covid-19, ma non in base alla loro alimentazione, in realtà non si tratta di persone che hanno vegane, che hanno un'alimentazione completamente a base vegetale, ma si tratta semplicemente di onnivori che però consumano molto meno carne e pesce rispetto alla dieta onnivora, diciamo, canonica, e che consumano invece molto di più verdure e frutta. Ma tra questi non compariva nessuna persona con un'alimentazione a base completamente vegetale, quindi nessun vegano, nessuna vegana, e solo qualcuno che era vegetariano. Quindi possiamo solo immaginare che cosa invece succede quando si parla non più di un'alimentazione onnivora maggiormente orientata verso la base vegetale, ma di un'alimentazione completamente vegetale. E con questo studio finisce la nostra rubrica antispecista, che è stata più breve del solito stavolta, ma che ha portato in campo la scienza, che a noi sempre piace, insomma non sempre, in verità non sempre, però in questo caso ci piace quando cerca di mettere in evidenza come un'alimentazione a base vegetale tuteli anche la salute degli animali umani. E con quest'ultimo siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Un'ora è volata, hai parlato talmente tanto che è durato pochissimo il tempo, ti ringrazio. Sì, come sempre do il mio contributo, e penso che chi ascolta a casa, insomma, è sempre un piacere, no? Che io apprezza, diciamo, la mia verve soprattutto. Detto questo, con grande ritmo concludiamo la puntata di questa settimana. Io do i contatti, come al solito, che sono quelli della mail lamuccalibera@autoproduzioni.net e il canale Telegram La Mucca Libera. Ricordo che il martedì alle ore 11 andiamo in replica e torneremo invece in diretta